verso il voto. Un saluto e benvenuti al Punto Politico. Ancora dissapori nel Popolo della Libertà per la candidatura di Giuseppe Ciarrapico. L'imprenditore ciociaro che non rinnega il fascismo causa uno scontro tra Forza Italia e AN. Vincenzo Miglietta. Ma è un signore di mondo. Quando lo si vede sprizza la simpatia di un Fabrizi. Adesso veramente vogliamo pensare che sia... Con quello che sta succedendo a Napoli è importante una dichiarazione... Del signor Ciarrapico, che poi ha subito smentito. Dai, su. Ne fa un ritratto bonario, paragonandolo all'attore Aldo Fabrizi, di fatto però blinda la sua candidatura. Berlusconi difende la scelta Ciarrapico, ricorda quando l'editore è stato accolto ed applaudito alla convention di Veltroni e poi spiega l'obiettivo è vincere ed anche la candidatura Ciarrapico rientra in questa strategia. Si deve fare una campagna elettorale, si deve vincere. L'editore Ciarrapico ha dei giornali importanti e credo che sia assolutamente importante che questi giornali non siano ostili, visto che quasi tutti i grandi giornali stanno dall'altra parte, quando ce n'è qualcuno che è a nostro favore, credo che sia una cosa assolutamente logica cercare di continuare ad averli a favore. Berlusconi risponde poi così alle perplessità di Fini e dice Alleanza Nazionale era stata avvertita. E anche Alleanza Nazionale era d'accordo sul fatto di questa candidatura. Pronta la replica da Via della Scrofa, a parlare è la Russa, così al TG3. Quello che è improprio è dire che eravamo d'accordo sulla candidatura, perché io stesso ho avanzato al presidente Berlusconi le perplessità forti di Alleanza Nazionale, che sono anche quelle di Fini. Sul nome di Ciarrapico resta però la bocciatura della Lega. Non abbiamo cambiato idea, spiega Calderoli. Sono convinto che sia una cosa negativa. Vorrà dire, aggiunge il senatore, che il Carroccio prenderà più voti. Critiche alla candidatura di Ciarrapico anche nel Partito Democratico. Walter Veltroni attacca da Ferrara e da Padova. Per il segretario del PD, dopo questa vicenda, per molti elettori moderati c'è un'evidente e forte incompatibilità con il Popolo della Libertà. Per Veltroni anche le giustificazioni di Silvio Berlusconi sono inaccettabili. Il problema è vincere le elezioni, per cui se tu sei proprietario dei giornali, vieni, che ti importa? Non è che io ti chiedo coerenza, ti chiedo di essere democratico, no, basta che tu hai i giornali e va bene. È questa idea della politica che io non riesco ad accettare. Il segretario del PD apprezza poi le parole del presidente della CEI, Angelo Bagnasco, che chiede di aumentare i salari con le larghe intese. Il cardinale Bagnasco ha parlato della necessità di fronteggiare una situazione di impoverimento delle famiglie attraverso un intervento sui salari e sugli stipendi e anche attraverso interventi di sostegno alle famiglie. Io penso che abbia ragione a dire che questo dovrebbe essere un tema sul quale vi dovrebbe essere una convergenza. Per far ripartire l'economia, spiega Veltroni, bisogna abbassare di un punto la pressione fiscale su salari, stipendi e pensioni. Veltroni parla poi agli imprenditori, bisogna che cambi la mentalità, dice il segretario del PD, chi vuole fare impresa è ancora visto con sospetto. Mentre sui sondaggi Veltroni è convinto che il PD è in recupero. Ci sono solo 4,5 punti di distacco, dice il segretario, mentre erano così sicuri di vincere. Ora sono terrorizzati. L'esito delle elezioni è ancora aperto. Critiche alla candidatura di Ciarrapico anche dal leader della destra Francesco Storace, per il quale l'imprenditore ciociaro è stato messo in lista per sottrargli voti. Sì, ho letto anch'io che sarebbe stata usata questa candidatura contro di me e non capisco che paura gli facciamo. Forse leggono i sondaggi e hanno capito che è una cosa seria la destra. Duro il giudizio su Ciarrapico anche da parte del leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini. Il Partito della Libertà vende l'anima pur di vincere le elezioni. Nelle sue liste ci sarà Ciarrapico e la giustificazione che Berlusconi adotta pubblicamente è quello che gli serve a vincere le elezioni. Ma vediamo con sorpresa che nelle liste del Partito della Libertà c'è anche il sottosegretario alla giustizia, attualmente facente parte del governo Prodi, che Berlusconi dice di voler combattere. La coesistenza tra Ciarrapico e la signora Melchiorre, sottosegretaria alla giustizia del governo Prodi, è il segno dello stato confusionale che c'è nei grandi partiti, nella PDL, come nel PD, che un giorno assemblea i radicali e un giorno i cattolici. Nella sinistra arcobaleno Angelo Bonelli accusa Ciarrapico di apologia del fascismo, mentre Fausto Bertinotti attacca. Non conta il profilo politico-programmatico, non conta neanche l'aderenza ai valori della Costituzione repubblicana, è buono quello che porta voti. Io penso che sia questa la visione politica che va sconfitta. Ma Bertinotti se la prende anche con il Partito Democratico, che candida imprenditori e lavoratori. Bisogna scegliere, dice, o si sta da una parte o dall'altra. Verso il voto finisce qui. Un saluto da Elisabetta Fiorito.